E ci siete cucito dentro. Bene, l'avete rimessa a nuovo. Bravo. Però non avete preso le misure della vostra gomma. Vedo. Ora volete uscire. Giusto. Rompendo la mia giara. Scemo! La giara è mia. E se si rompe un'altra volta a me, chi la paga? E allora? Vorreste tenermi chiuso qui dentro? No, no. Però prima bisogna vedere quello che si deve fare. E che si deve fare? Io pagare vostra signoria? Ma che stiamo scherzando? Se avessi messo solo il mastice, il mio mastice, a quest'ora non mi troverei qua dentro. E qui dentro ci faccio i piedi. Voi l'avete rotta e io ho vinto!